L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Siamo in diretta come sempre da Radio 24, Radio 24 che segue quotidianamente quella che è l'attualità economica, l'attualità politica europea. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista con questo programma in collaborazione con Euronet Plus, un network di tante radio straniere, per raccontare con voci diverse un percorso comune, che è il percorso della nostra Europa, percorso attualissimo. Avete ascoltato quello che è successo in queste ore, stanno cambiando le teste, stanno cambiando i vertici, si sta dando una nuova direzione a questa Europa che nei prossimi mesi vedrà l'Italia come grande protagonista. Di questo anche parleremo oggi. Le coordinate per seguirci sui social network è Euronet Plus R24, oppure il mio account personale Federico Taddia su Facebook e su Twitter, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo da un atto d'amore. Love of my life. Apriamo con i Queen per introdurre questo prologo d'amore e d'arte per l'Italia europea, manifestazione che si terrà il 30 giugno presso il Teatro Argentina ed è un input, un incipit culturale per dare il via al semestre europeo a guida italiana. Tanti intellettuali, tanti artisti sullo stesso palco per dichiarare il proprio amore all'Europa, con formule molto particolari e molto curiose. Ci sarà Olimpia Greco, Maddalena Crippa, Lorenzo Lavia, Giorgio Albertazzi in questa lunga e bella e intensa serata. Tra di loro ci sarà anche il nostro ospite. Do il benvenuto a Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano e direttrice dello spazio teatrale Nomadi Milano. Buongiorno Livia, benvenuta. Buongiorno a tutti i suoi spettatori. È una dichiarazione ascoltatori, ho sbagliato, ascoltatori. È l'abitudine. Parlando di teatro. ma è bello, insomma, anche la radio nel suo piccolo, una piccola formula teatrale. Livia, si può dichiarare il proprio amore all'Europa? È un oggetto, è un soggetto a cui si può dire ti amo? Ah, ma certamente, oltretutto la nostra casa comune l'abbiamo scelta tutti insieme e quindi noi amiamo sicuramente ciò che abbiamo scelto e che non solo sta nel nostro cuore ma sta nel nostro quotidiano. Mm-hmm. Livia, noi la conosciamo benissimo per tutta la sua attività legata al Tribunale di Milano, poi c'è questa passione nascosta ma neanche tanto per il teatro. No, no, non nascosta, certamente molto evidente. Sì, io ho editato 6 anni fa il teatro di mia sorella Teresa e poiché mi è parso che questo teatro particolare, libero e gratuito, potesse essere anche una piccola e grande scommessa per il futuro, perché la cultura e il teatro siano patrimonio di tutti e non solo di chi se lo può permettere, ho deciso di continuare. Mm-hmm. Cultura che deve essere anche il centro, il cuore di questa Europa, e un pezzettino di teatro lo porterà su questo palco, sul palco del Teatro Argentina. Cosa racconterai? Che pezzo di storia d'amore verso l'Europa? In realtà è un immaginario incontro tra Melina Mercuri e Angela Merkel. E sarà, come dire, un atto d'amore da parte della Melina Mercuri, ricordando le sue origini greche e il fatto che noi siamo tutti figli della Grecia e non, come qualche volta pure è stato detto dalla stessa Merkel, fratelli. Noi europei non siamo fratelli, siamo figli della Grecia. Figli di quella cultura, figli di quella speranza di accrescimento di conoscenza e di pensiero, oltre che di dubbio naturalmente, che è stata l'eredità che ci ha lasciato la grande Grecia. Ricordiamo Melina Mercuri, la prima ministra della cultura nella Grecia liberata, e che certo, lei che lanciò certo l'idea delle capitali europee della cultura, quindi insomma è appunto la cultura aveva, al centro. Lei aveva costruito questa esperienza, che è tuttora presente, di fare ogni tanto una città dell'Europa capitale della cultura. E questo è accaduto con Atene, con Berlino, con Weimar, con Patrasso, con Salonicco e tante altre, adesso con Marsiglia, come sapete. Certo. Bisognerà individuare la capitale dell'anno prossimo, e quindi credo che sia stata un'esperienza straordinaria, perché consente attraverso la cultura ai popoli di conoscersi, di conoscere le proprie tradizioni, di conoscere il proprio modo di essere nazione, e quindi è un modo per avvicinarci tutti attraverso la cultura. Ma la Merkel oggi ascolterebbe la Mercuri? Come? Oggi la Merkel l'ascolterebbe la Mercuri? non lo so, io ci provo, va bene? Ah, l'idea di questo dialogo immaginario è molto, molto stimolante, molto stimolante, molto grazie, originale. Allora ricordiamo ancora Prologo d'amore ed arte per l'Italia europea il 30 giugno 2014 dalle 21 a Roma presso il Teatro Argentina. Tutte le informazioni le trovate già sui nostri social network oppure sull'indirizzo teatrodiroma.net per conoscere il programma della serata con tanti artisti, tanti intellettuali sullo stesso palco. Un grazie a Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano. Grazie. Buona Europa. Grazie a voi, grazie, buona Europa. Europost-it. Viaggiare sicuri, una guida della Commissione Europea. State per partire per le vacanze? La cittadinanza europea è una garanzia. Gli uffici delle istituzioni europee vi assistono per molti dei problemi che possono capitare viaggiando. Potete richiedere il loro aiuto se il vostro volo viene cancellato, oppure se avete bisogno di un medico, oppure ancora i vostri acquisti all'estero si sono rivelati difettosi. Se volete conoscere meglio come siete tutelati, il Dipartimento Politico Europeo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riportato un utile vademecum curato dalla Commissione Europea sul proprio sito. Fateci un giro, vivieuropa.it, e ricordatevi, grazie all'Europa dal 1 luglio anche le tariffe del roaming telefonico saranno drasticamente ridotte. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi ricordo che le coordinate, oltre sulle nostre piazze virtuali, gli account del programma, i miei personali, Federico Taddia, potete riascoltare tutto dal nostro sito radio24.it. Da lì si può scaricare la puntata e si possono selezionare le varie parti del programma. Se avete bisogno di informazioni potete contattare direttamente la nostra redazione. L'indirizzo email è l'altraeuropa@radio24.it. L'altra Europa. Lavorare è un sogno, canta Bruce Springsteen, questo sogno che a noi piace chiamare Europa, un sogno che è realtà, un sogno che è la nostra quotidianità, un sogno che giorno per giorno entra per fortuna nelle nostre vite, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che poi va guidata perché ci sono linee politiche, perché chi queste decisioni le deve prendere. Lo abbiamo detto tante volte in questi mesi, ma ci siamo, il 1 luglio è alle porte. Dal 1 luglio sarà l'Italia il presidente del Consiglio dei Ministri dei 28 paesi dell'Unione Europea, questo semestre a guida appunto italiano, un appuntamento che non è una formalità, ma è un qualcosa di sostanziale, un appuntamento che si va a intrecciare con l'Expo, un appuntamento che vedrà Milano protagonista. Ma cosa succederà dal primo di luglio e perché questi 6 mesi sono 6 mesi importanti? Di questo ne parliamo con Fabrizio Spada, che è il direttore della rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Ciao Fabrizio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 6 mesi tosti, 6 mesi intensi, 6 mesi stimolanti, come vi state preparando a questo avvio? Ma il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea è un avvenimento molto importante. Non tutti sanno che il Consiglio Europeo, cioè l'insieme di tutti i capi di governo, è quello che è titolare in Europa del potere legislativo insieme al Parlamento, quindi prende le decisioni vere. E non tutti sanno, forse non è stato nemmeno troppo pubblicizzato, che la maggior parte dei consigli dei ministri informali di questo semestre sarà a Milano e non a Roma. Era stato deciso dal precedente governo italiano, cioè dal governo Letta, anche per promuovere poi l'Expo. Quindi circa 15 dei 18 consigli informali si svolgeranno a Milano. Quindi insomma Milano che diventerà veramente capitale di quelle che saranno le decisioni europee. Fabrizio, puoi aiutarci a capire, a far capire ai nostri ascoltatori, 6 mesi appunto non solo di formalità, nel senso che da lì passano le decisioni, come hai anticipato tu, cosa vuol dire essere un po' il faro per una nazione in questi 6 mesi? Dunque, quando l'Italia o un altro paese assume la presidenza del Consiglio europeo, in buona sostanza decide l'agenda delle decisioni, quindi decide di cosa si parla durante i consigli europei, che può sembrare una cosa non importante, invece è fondamentale, perché alcuni argomenti possono essere discussi, altri possono essere, diciamo, messi in ombra, e quindi chi decide di che cosa si parla ha un potere reale. Poi non dimentichiamo che è il Consiglio europeo a prendere le decisioni più importanti, lo vediamo in questi giorni con la nomina dei vertici delle nuove istituzioni. Per esempio ieri è stato nominato il nuovo Presidente della Commissione europea, che è Juncker. Certo. È vero che era stato indicato da prima delle elezioni europee, però di fatto la decisione formale deve essere presa e anche sostanziale, direi, dal Consiglio europeo e poi confermata dal Parlamento europeo. Quindi si vede che il potere reale del Consiglio è molto elevato, sono i governi che decidono le cose in Europa per il momento. Europa ed Expo, che matrimonio sarà? Allora, l'Unione Europea partecipa all'Expo con un padiglione, che è all'interno del padiglione Italia, proprio a sottolineare che l'Italia fa parte dell'Europa e che l'Europa è parte integrante del nostro paese. Lo stiamo seguendo i lavori. Naturalmente l'organizzazione dell'Expo fa capo alla società Expo e quindi poi alle autorità italiane, ma c'è assolutamente una linea di continuità ideale, anche perché molte politiche europee sono, diciamo, al centro di quello che sarà il tema dell'Expo. Non dimentichiamo che la Commissione europea ha tante direzioni generali che si occupano di alimentazione, di sicurezza dei prodotti alimentari, di agricoltura, quindi c'è, diciamo, un filone ideale che unisce i temi dell'Expo con le principali politiche europee. Saranno tante le tematiche in agenda, le tematiche importanti nei prossimi 6 mesi: crescita, occupazione, lavoro, immigrazione, Mediterraneo. Secondo te, Fabrizio, quale sarà il vero cuore? Ci sarà una parola che più di altre sentiremo nei prossimi mesi? Ma i temi che sono sul tappeto sono molti e sono tutti importanti. Sicuramente i temi economici che hanno fatto da padrona negli ultimi anni e l'occupazione, che è il vero problema dell'Europa. Anche l'immigrazione, nel senso che devono cambiare in un certo senso le politiche europee, nel senso che allo stato attuale l'Europa può fare poco per l'immigrazione, perché non è una politica che è di competenza della Commissione europea, dell'Unione europea. Però i governi, se vogliono, possono decidere di cambiare questo tipo di legislazione. Quindi, diciamo, nella discussione fra i capi di governo, fra i ministri competenti per questa materia, può fuoriuscire un nuovo quadro legislativo che consideri i confini di uno Stato come confini europei, cosa che attualmente invece non è, perché è solo la polizia italiana che può intervenire sui confini italiani. Non esiste una polizia europea che può, per esempio, intervenire quando arriva un barcone. Certo, certo. Fabrizio, grazie davvero. Allora, ricordiamo ic.europa.eu/Italia, il sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buon lavoro per questi 6 mesi, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, perché visto che Milano sarà un po' il cuore di tutto, ti utilizzeremo un po' come guida per capire quello che accadrà, va bene? Certamente, come sempre un piacere. Ringrazio te, Federico, e tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie a te, ciao, buon lavoro. Grazie. Europost-it. Un'opportunità per gli esperti di informatica. L'EPSO, Ufficio Europeo di Selezione del Personale, ricerca assistenti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tramite un concorso per titoli ed esami. Lo scopo è costituire elenchi di riserva per l'assunzione. Il bando riguarda 5 settori: sistemi informatici, sicurezza dei sistemi informatici, reti e telecomunicazioni, infrastruttura informatica e centro elaborazioni dati e infine web. Si può scegliere di candidarsi per uno solo di questi settori. La candidatura va mandata online entro il 15 luglio. Trovate il bando su europa.eu/EPSO. Majority. Yes, when the people lead, people take the lead. Ancora l'Altra Europa, ed è l'Europa protagonista. Lo scorso venerdì 20 giugno all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano si è tenuta la proclamazione di oltre 600 dottori di ricerca, segno di come la ricerca in Italia sia attiva, sia viva, sia creativa. Tra di loro una 50 di dottori, di ricercatori venivano dall'estero, ma la cosa importante e significativa, le tante tesi, tanti lavori legati all'Europa. Ne abbiamo scelto uno per capire cosa significa anche studiarla, questa Europa, sui banchi dell'università, sui banchi della ricerca. Diamo il benvenuto a Roxana Ionela Sandu. Ciao Roxana. Ciao Federico, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Buongiorno a te, tu sei di origine rumena, hai fatto questa ricerca dove hai analizzato il voto europeo, la tendenza all'euro scetticismo, ma la sì. Tua è tutta una storia europea anche, no? Nel senso, hai studiato in Italia, adesso sei in Belgio, se non erro. Sì, certo. Allora, sono stata molto contenta di aver preso la borsa di studio per il dottorato in economia e finanza preso all'Università Cattolica. Sì. E nell'ultimo anno di dottorato sono stata scelta per fare un trainership alla Commissione Europea nella Direzione Generale di Ricerca e Innovazione. Ah, quindi hai vissuto quello che in parte avevi studiato, cioè sei entrata nel... Quindi, sì, sono proprio partita perché volevo conoscere dall'interno ma cosa è questa Unione Europea e come funziona. E quindi sono stata molto contenta perché alla fine ho vissuto, se vuoi, il sogno europeo. Mm-hmm. E comunque io ci credo tanto e quindi per quello vorrei anche trasmettere ai tuoi ascoltatori la mia esperienza e anche la mia ricerca. Intanto prima adesso, ti faccio... No, sì. Prima, Roxana, hai imparato più cose dai libri o hai imparato più cose entrando nel palazzo, entrando negli uffici dell'Europa? È un mischio perché i libri ci servono, la teoria e anche l'esperienza, perché alla fine la mia tesi di ricerca è stata una ricerca empirica, quindi con i dati io ho voluto vedere se qual è la legittimità delle istituzioni europee, il comportamento di voto dei cittadini e affluenza al voto, e quindi da dentro ho vissuto come questo macchinario europeo funziona. Mm-hmm. Quindi sono importanti tutte e due. Quindi se vuoi, praticamente io come domande di ricerca ho avuto l'esistenza di un vero partito europeo, esiste la base per averlo. Poi quali sono i fattori che influenzano la partecipazione dei cittadini alle elezioni del Parlamento europeo? E poi perché questo divario di partecipazione attraverso elezioni europee e nazionali? Quindi io, usando i dati empirici, ho visto che comunque il statuto socio-economico è molto importante, anche la partecipazione è molto importante, perché è così che i cittadini possono esprimere la loro opinione per le elezioni del Parlamento europeo, che sono l'unica istituzione che rappresenta veramente gli interessi dei cittadini. Certo, quindi, Roxana, dai tuoi studi, dalle tue ricerche, quando un cittadino va a votare alle elezioni europee, l'atteggiamento è lo stesso di quando va a votare per le politiche locali? No. No, è molto diverso, quindi esiste un interesse più grande per le elezioni locali, quindi nazionali, esiste più interesse anche dai parte della partiti, anche della mass media, quindi non solo del cittadino. E solo quelli che hanno più informazioni, quindi sono altamente educati, vanno per le elezioni del Parlamento europeo. Invece per le elezioni nazionali i cittadini vanno comunque, sono più interessati. Mm-hmm. Che cos'è l'euroscetticismo oggi? L'euroscetticismo si può tradurre in diversi modi. Praticamente la visibilità del partito e del politico a livello europeo è molto meno che la visibilità di un politico a livello nazionale. Quindi è molto più facile dare la colpa all'Europa per le politiche che a livello nazionale non funzionano. Quindi per questo, per la mancanza di crescita economica, per l'aumento del tasso di disoccupazione, allora i cittadini danno la colpa all'Unione Europea, quindi invece dovremmo dare la colpa ai politici nazionali. Mm-hmm. Quindi questo che si chiama praticamente è un euroscetticismo che si tratta di dei risultati delle politiche che sono perseguite. Poi nella letteratura sono diversi modi per spiegare l'euroscetticismo, anche l'avversione o la simpatia per un politico, per un partito o per un partito politico. Certo. Però direi di più che oggi direi che comunque la mancanza di visibilità delle politiche, dei risultati delle politiche a livello europeo hanno indotto i cittadini per essere più schettici e per votare più per i partiti euroschettici, che comunque secondo me non è una buona idea, perché questo farà solo il male a loro stessi e anche all'Europa. Grazie a voi, Roxana. Ricordiamo, hai frequentato la scuola di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica, una delle tante ricerche che sono state premiate nella proclamazione dei dottori di ricerca che si è tenuto il 20 di giugno. Grazie davvero, complimenti. Ora ti trovi al Collegio d'Europa di Bruce. Di cosa ti occupi attualmente? Grazie mille. Sì, al collegio sono praticamente assistente accademico nel Dipartimento di Economia. Oh, okay. E seguo diversi corsi come la politica fiscale dell'Unione Europea, economia e l'integrazione europea, mercato europeo del lavoro e tanti altri corsi. Quindi seguo anche e sostengo progetti empirici per gli studenti, organizziamo conferenze, per esempio quest'anno insieme ai miei colleghi, che sono due ragazzi italiani, abbiamo organizzato una conferenza molto importante con l'ex primo ministro Mario Monti, con il ministro di finanza Schauble, anche il primo ministro della Scozia Salmond. Quindi sono sempre le personalità che vengono a parlare al Collegio di Europa e anche a dare corsi ai nostri studenti. Grazie davvero, complimenti. Ciao Roxana. Grazie mille, ciao Federico. Adesso ci fermiamo, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. La strategia europea per i giovani in un cartoon. Cosa fa l'Europa per i giovani? Che cos'è la strategia europea per i giovani? Ed Erasmus Plus? Per saperlo, guardate il video che la rete Eurodesk ha appena lanciato, con un'animazione che spiega le opportunità contenute nella strategia per i giovani, le iniziative lanciate e i fondi stanziati. Il video è in inglese, ma sottotitolato in italiano. Guardatelo sul canale YouTube di Eurodesk Italy. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia per trovarci sia su Twitter sia su Facebook. Riapriamo la puntata ascoltando le note di questo concerto della Filarmonica di Vienna. Il concerto della Filarmonica sarà uno degli eventi clou delle manifestazioni, delle celebrazioni che si stanno tenendo a Sarajevo per l'anniversario dei 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale, della grande guerra. E questo concerto, un evento unico perché si terrà all'interno della Biblioteca Nazionale di Sarajevo, distrutta durante l'assedio alla città e dopo 18 anni di lavoro di ricostruzione è stata riaperta, e quindi appunto ospiterà questa musica di speranza, di pace, di futuro. Di tutto questo parliamo con Nicole Corritore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che in questi giorni si trova proprio a Sarajevo per raccontare le celebrazioni legate al centenario. Ciao Nicole, ben ritrovata. Buongiorno a voi e a tutti quanti gli ascoltatori. L'Altra Europa, un programma che vuol parlare di cultura, che vuol parlare di futuro, che vuol parlare anche dell'Europa al di là dell'economia e della politica, ha bisogno di scavare nel passato per scoprire il presente, ridisegnare anche il futuro, e quello che sta succedendo a Sarajevo in questi giorni appunto rappresenta tutto ciò. Come sta vivendo la città questo anniversario? È un evento sentito, è un momento che va anche al di là di quelle che sono le celebrazioni ufficiali? Le iniziative che si stanno tenendo in città, non solo in questa settimana, in realtà iniziative che sono partite già da gennaio e febbraio di quest'anno e proseguiranno fino a ottobre-novembre, vengono vissute in maniera differente a seconda di chi si sta parlando. Abbiamo una popolazione, la maggioranza della popolazione, che ahimè vive ancora in una situazione di crisi economica, grande crisi economica, quindi che hanno la necessità in realtà di concentrarsi più sulla sopravvivenza che non alla partecipazione di eventi culturali che si stanno tenendo in città e ravvivano in realtà la città, ma che in alcuni casi non è possibile neanche parteciparvi, perché non è possibile pagare il biglietto per entrare adesso. Chiaro, terra. In realtà l'iniziativa ha un grande portato culturale e anche simbolico, che ricordo viene fatta sotto il cappello del titolo Sarajevo, cuore d'Europa, Sarajevo, Srce Europe, e ha portato qui tanti eventi che hanno cercato di avviare una riflessione sì sui 100 anni della prima guerra mondiale, su quelli che furono gli avvenimenti di allora e su come cambiò l'Europa poi e come è cambiata l'Europa in questo secolo, quindi con manifestazioni, conferenze internazionali, spettacoli teatrali, mostre fotografiche ed eventi organizzati dagli stessi associazioni, il coro locale del Teatro Nazionale, le associazioni musicali, che hanno ravvivato la città e che hanno sicuramente cambiato anche la quotidianità di questa città. Certo, il 28 giugno del 1914 ci fu l'assassinio l'arciduca Francesco Ferdinando, che viene un po' riconosciuto come l'evento scatenante della grande guerra. Si è scelta la cultura, si è scelta l'arte, la musica, il teatro, soprattutto più che grandi conveni, mi pare, per rivivere appunto non tanto quel giorno, ma per ripartire da quel giorno, per andare a riscoprire il cuore d'Europa. Infatti l'obiettivo dichiarato è quello di inviare da Sarajevo un messaggio di pace al mondo. Ad esempio, una delle iniziative della giornata di oggi, dopo il concerto della Filarmonica di Vienna, che inizierà appunto alla Biblioteca Nazionale alle 6:15, vi sarà un evento che si intitola Dopo 100 anni di guerre, vogliamo 100 anni di pace, organizzati dall'associazione teatrale East West, diretta da Haris Pashovic, che è un regista che probabilmente ricordiamo perché sulle pagine dei nostri giornali scriveva assieme a Susan Sontag, che venne qua a Sarajevo per realizzare degli spettacoli durante l'assedio. E obiettivo complementare di questi eventi è quello di anche cambiare il brand di Sarajevo, cioè non più Sarajevo come luogo del conflitto e dell'instabilità come è stato nel corso del Novecento, ma simbolo di pace. Grazie davvero Nicole, grazie per le tue parole, grazie per la tua testimonianza. Ricordiamo balcanicaucaso.org, il portale su cui leggere i vari reportage e su cui andare a scoprire anche l'intero programma, ciò che è stato e ciò che ancora deve accadere, tante riflessioni e tanti approfondimenti legati ai Balcani in generale. Ciao Nicole, grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Europost-it. L'Europa nella mia regione, in foto. C'è un progetto, un edificio, un'idea realizzata nella tua regione grazie ai fondi regionali dell'Unione Europea che ti è piaciuta particolarmente? Fotografala e inviala alla Commissione Europea. Potrai vincere fino a 1000 euro in attrezzature digitali e un viaggio per due a Bruxelles. Per partecipare, basta registrarsi e condividere sulla pagina Facebook del concorso facebook.com/European Commission. Sotto l'hashtag EU My Region. L'audio che state ascoltando è l'audio di uno spot che mette al centro la raccolta differenziata. C'è una lattina che viene gettata per terra, una fermata del bus. È tutta una storia che si costruisce in questo cortometraggio che abbiamo scelto per parlarvi della Settimana Europea delle Energie Sostenibili. Dal 23 al 27 giugno si è appena conclusa questa settimana, dove il focus è proprio legato alle nuove energie, alle rinnovabili, alle energie del futuro, le energie che ci permetteranno di sopravvivere, le energie che permetteranno di garantire la sopravvivenza in città sempre più grandi, ma dove anche la qualità della vita sia appunto al centro. È un evento durante il quale la Commissione Europea ha premiato i 6 migliori progetti nel campo dell'efficienza energetica. Tra questi progetti, non tra i progetti vincitori, non ci sono progetti italiani, però tra i 30 finalisti c'erano ben 4 progetti, belle storie, belle pratiche, di quelle pratiche che raccontano l'Europa dell'opportunità, l'Europa delle possibilità. Ve ne presentiamo uno, Energy Beats, e diamo il benvenuto a Daniela Melandri, coordinatrice del progetto, appena tornata da Bruxelles. Ciao Daniela. Salve, ciao Federico, buongiorno a tutti. Che cos'è Energy Beats? Allora, innanzitutto non nego una certa emozione nel sentire questa musica di sottofondo, perché è una musica composta da dei ragazzi di 17 anni che sono stati il centro del nostro progetto. Il nostro progetto era focalizzato sull'aumento della conoscenza, insomma la sensibilizzazione dei ragazzi appunto in età tra gli 11 e i 18 anni, attraverso una serie di attività che noi abbiamo chiamato cross media, perché erano attività realmente focalizzate sulla partecipazione dei media, quindi delle televisioni, di internet, eccetera eccetera, come veicolo di comunicazione e divulgazione. Però i ragazzi erano al centro di questo progetto, infatti hanno fatto dei video, e la musica che voi avete scelto adesso è proprio una musica fatta, che viene da uno dei 3 video vincitori della sfida che faceva parte del progetto di Energy Beats appunto, e quindi prodotto da questi ragazzi spagnoli che ha avuto un enorme successo, addirittura è stato uno dei video più visti sul Guardian, insomma, per varie settimane. Una bella soddisfazione, perché una bellissima soddisfazione una bellissima soddisfazione, anche perché il progetto in realtà aveva 9 grandissimi broadcasters, quindi grandi televisioni come la RAI, insomma l'equivalente della RAI in Europa, ma non soltanto in Europa, anche in Sud America, e abbiamo poi portato alcune partnership anche in Asia attraverso dei festival che abbiamo vinto, eccetera eccetera. Abbiamo fatto una serie di attività che erano appunto queste questa qui della, della gara attraverso delle produzioni che i ragazzi hanno fatto in giro per l'Europa. Più di 250 scuole hanno partecipato a questa gara. CANS, esattamente il progetto che nominavi prima, ha vinto la, la, la, la sfida del pubblico. E abbiamo fatto 27 documentari che si possono trovare, che vanno in onda sulla Rai, in particolare su Rai Scuola, ma anche insomma su Rai 3 in tarda serata, e sulle televisioni nazionali che facevano parte del, del progetto, come la televisione belga, quella francese, quella slovena, quella greca, eccetera eccetera. Daniela, ti chiedo un minuto di pazienza, il momento, sai che noi abbiamo l'orologio che detta i nostri tempi, è il momento della pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Oltre 25 milioni di spettatori totali per questo progetto che per la seconda volta è stato segnalato all'interno della settimana delle energie sostenibili. C'è un canale YouTube su cui, attraverso il quale si possono vedere tutti i progetti, tutti i video, che è More Energy Beats. Questi sono un po' i numeri, sono un po' le coordinate di questo progetto di story, di storytelling. Di fatto, Daniela, il cuore è quello, trovare altre modalità, trovare altre vie per trasmettere messaggi importanti. Sì, esatto, è mettere al centro, diciamo, i protagonisti delle, delle storie, non soltanto come protagonisti del racconto, ma anche come coloro che fanno il racconto. Quindi appunto sia i documentari professionali che sono stati realizzati, sia quelli proprio delle produzioni dei ragazzi, sono comunque tutte state realizzate con i ragazzi, quindi anche una parte, diciamo, una grandissima interazione da parte delle televisioni con le scuole, per realizzare un qualcosa insieme che non soltanto raccontasse i ragazzi, ma che li mettesse proprio al centro di tutto il processo, quindi in qualche modo che fosse più veritiero possibile. Ed è stata un'emozione, è stata una grandissima esperienza vedere quella cosa che loro pensano della sostenibilità, fondamentalmente. Insomma, sono loro i grandi protagonisti. E un sito internet per tutte le coordinate, energybeats.eu/it, questo è il sito, trovate tutto anche sulle nostre piazze virtuali legate all'altra Europa. Grazie Daniela, complimenti a te e a tutto il tuo team. Ciao. Grazie ancora, grazie. Ciao Federico, arrivederci a tutti. Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore, pieno fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore. Passi la notte che li aspetta. Il rebetico di Caposela che ci accompagna verso la chiusura di puntata, la scoperta di un paradiso naturale. Privatizzazione in Grecia, l'asta al paradiso naturale di Elafonisos, così titolava Il Sole 24 Ore qualche giorno fa, per denunciare quello che gli ambientalisti di mezzo mondo stanno denunciando da tempo, questa svendita di patrimoni culturali, patrimoni naturali, per cercare di fare cassa. Al centro adesso c'è questa spiaggia, che è una spiaggia bellissima, un pezzo di paradiso, ma queste tante ose di paradiso che costeggiano, che punteggiano il nostro Mediterraneo, li stanno raccontando attraverso un progetto molto, molto bello, molto visionario. È un'imbarcazione, si chiama Mediterranea, un'imbarcazione che per 5 anni solcherà le acque del Mediterraneo per raccontarlo, alla ricerca delle teste più belle del Mediterraneo. Questo è uno dei passaggi che più mi ha colpito nella presentazione di questo progetto. A capo di tutto, a capo nel senso bello, perché è lui che appunto guida, il capitano di questo progetto, c'è Simone Perrotti che è qua con noi. Ciao Simone. Ciao Federico, ciao a tutti. Avete occupato simbolicamente l'isola, un'occupazione che cosa voleva dire? Qual era il vostro urlo? Qual era la vostra richiesta? Guarda Federico, stiamo navigando tra le isole della Grecia da un mese e mezzo, lo faremo per 5 anni in tutto il Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale, alla ricerca, come tu dicevi, degli intelletti, delle teste, delle idee, e poi anche con un programma di ricerca scientifica applicato al mare, ed è una grande tristezza, devo dirti. Passiamo continuamente di fronte a isole minacciate, abbiamo fatto già l'occupazione di Peganissi, un'isola dell'arcipelago delle Ioniche che è stata comprata da Rothschild in gran parte, e dove c'è un progetto di costruzione di 14 megaville. Era l'ultimo posto che io ricordavo dove si poteva dare ancora senza vedere nessuna luce elettrica. Era una tristezza infinita vedere Oxia comprata dall'emiro dell'Oman, i cinesi che stanno comprando isole a nord-est di Itaca perché pare che ci sia del petrolio sotto, il che vuol dire che siamo gli ultimi a vederle. E poi è la Fonissos, quella che hai citato, che è una spiaggia meravigliosa con una doppia mezzaluna di sabbia finissima, uno dei grandi patrimoni del Mediterraneo e quindi del mondo. Ma tra l'altro sotto la protezione del programma europeo Natura 2000, quindi insomma dovrebbe esserci anche una sorta di tutela istituzionale. Ma infatti questo è il paradosso nel paradosso, qui nessuno tutela più niente. Le crisi costruite da sistemi economici che non hanno avuto neanche il buon gusto di fare autocritiche, come quelli del liberismo sfrenato, o poi salvati da pesanti iniezioni di denaro dello Stato, ricordiamo i 900 miliardi di dollari di Obama per salvare le banche, almeno avrebbero dovuto fare autocritiche, invece non solo non la fanno, continuano a spargere il veleno del denaro dovunque e perdiamo un patrimonio straordinario. Ieri volevamo andare in un'isola che sta vicino a Spezie, che è un'isola meravigliosa da cui appunto venivano le spezie, dove c'è un'eroina che ha fatto la resistenza, grandi storie del Mediterraneo, poi abbiamo guardato il portolano, è privata. Quindi siamo andati con la nostra barca, che è una piccola barca, nel senso una grande barca di 18 metri, ma una piccola cosa rispetto a questi grandi movimenti di denaro, però è anche una barca molto agguerrita, abbiamo uno striscione in cui c'è scritto "This island is ours", perché noi siamo cittadini del Mediterraneo, di lingua italiana incidentalmente, ma siamo cittadini di questo mare e quindi quell'isola è nostra, non si può vendere. Facciamo questo gesto continuamente in tutti i luoghi che incontriamo e cerchiamo di farlo con l'impeto della protesta, ben consci di essere dei piccoli Davidi di fronte ai Golia della finanza, di questa corruzione anche che pervade grandi governi messi sotto schiaffo dalle note faccende europee e che quindi possono fare quello che vogliono. Questo dovrebbe essere assolutamente proibito. Con il lancio del semestre italiano noi faremo la proposta di mettere tutto il Mediterraneo protetto dall'UNESCO, uno dei posti più belli del mondo minacciati dalla cementificazione, dalla vendita, dall'inquinamento. Quindi perdiamo tutto quello che abbiamo in un momento in cui dovremmo salvarlo e farne una risorsa. Potrebbe ripartire una nuova Europa proprio dal Mediterraneo? Guarda che noi siamo parte dell'Europa, è argomento di cui potremmo parlare a lungo, può anche starci, ma questo è irrilevante. Noi siamo parte di una zona e di un'area ben più ricca di storia e di collegamenti e di risorse che è quella del Mediterraneo. Il progetto Mediterraneo viaggerà per 29 paesi che sono in quest'area e che è un continente che dovrebbe essere unito. Sono tre continenti, ci sono le tre religioni monoteiste più importanti del mondo, ci sono razze, lingue, storia comune, e questa, immaginiamoci il Mediterraneo, un'area comune di libero scambio, per esempio, cosa potrebbe voler dire? Perché l'Italia non è anche in Europa a fare l'ultima del carro e invece però potrebbe essere anche tra i primi paesi traino culturale di idee di un'area comune del Mediterraneo. Per noi l'idea degli Stati Uniti del Mediterraneo è un'idea concreta, oggi parliamo di questo, forse qualcuno ci ride dietro, magari fra 30 anni o 50 anni ci sarà, questo aiuterà per esempio a risolvere i problemi della sponda sud dell'Europa che è l'olocausto di cui la storia ci chiederà conto e che invece rimane ogni giorno assolutamente isolato e dimenticato come problema, perché parliamo di banche naturalmente, no? Parliamo di soldi, certo. Quindi la vita della gente non conta. Simone, ci si può imbarcare con voi, vero? Sì, il nostro è un progetto abbastanza avventuroso, nel senso che abbiamo deciso di non avere uno sponsor perché facciamo la lista delle aziende a cui poter chiedere aiuto e poi ci rendevamo conto che non ce n'era una che ci andasse bene per motivi ambientali, per motivi di etica, eccetera. E quindi abbiamo lanciato un progetto di co-sailing, siamo i primi al mondo a farlo, ma secondo me ci seguiranno in tanti. Se ognuno mette pochi soldi e siamo in tanti, noi possiamo andare liberi dove vogliamo. Per cui le persone mettono 1.000 euro all'anno per 5 anni, e vengono a bordo quando vogliono, ci diamo naturalmente il cambio per non affollare la barca, ma non c'è questo problema perché la gente ha più voglia di fare che non tempo per fare le cose, quindi in realtà siamo in tanti, ci diamo il cambio, ci sosteniamo da soli, siamo completamente ecocompatibili, abbiamo pannelli solari, eolico, rispettiamo il mare, cerchiamo di vivere in maniera sensata. Progettomediterranea.com è il sito per conoscere l'intero progetto, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa con Simone Perrotti. Ciao Simone, grazie. Buon sabato. Federico, seguiteci. Ciao. Certo, ciao ciao. Grazie anche a voi invece per aver seguito noi, per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a Margherita Aina che con me ha scritto la puntata, Silvia Righini che ci ha dato una mano in assistenza oggi, Niccolò Rossoni alla parte tecnica, Roberto Scaltriti. Questa è la squadra dell'Altra Europa. L'appuntamento è a sabato prossimo, oppure ci trovate sul nostro sito radio24.it. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Daddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.